data in te. Una statica formula che divora l'anima finché ce n'è. Rivoglio il mio cielo e quel perdono che non danno più. La notte col velo e con